Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. La población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial. Gallego, juegue para Transil, devuelve para Gallego, cuidado, de la de Bardín entre dos, bien, buena gambeta, entra Luque, enganchó para Kempe, peligro, tiro, gol, gol, gol, gol, argentino, Mario Kempe con pelota y todo. Marzo 1976, la voce del generale Videla annuncia agli argentini l'inizio della dittatura militare. E poi il 25 giugno 1978 un gol di Mario Kempes, l'idolo del popolo argentino, il trascinatore di quella nazionale, padrona di casa in quell'edizione del mondiale, spinge l'Argentina dal Flaco Menotti verso la Coppa del Mondo, una delle coppe del mondo più controverse, opache, oscure. Beh, sono questi forse i due poli della storia che oggi vi raccontiamo qui a Olimpia, con una certa emozione, perché era proprio un 25 giugno del 1978, erano esattamente 39 anni fa che a Buenos Aires Argentina e Olanda si sfidavano per conquistare quella coppa. Gli argentini trionfarono 3-1 nei tempi supplementari sotto gli occhi del generale Videla e di qualche altro personaggio intrecciato anche e soprattutto con la storia d'Italia. Ebbene, quella partita, quella storia, quella vicenda, che è un pezzo anche della nostra storia, vogliamo oggi rivivere a Olimpia con la voce e con le pagine scritte da un collega, ma ancora di più un amico, Daniele Biacchessi. Benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Buonasera a tutti. Una generazione scomparsa ai mondiali in Argentina del 1978, questo è il volume che Daniele ha pubblicato in questi giorni per i titoli di Yaka Book, in cui rivivi quei mondiali alla luce di quella storia, di quella dittatura, perché a poche centinaia di metri da quello stadio in cui un pezzo d'Argentina festeggiava quel titolo, un'altra metà del paese vedeva sacrificata sull'altare della dittatura la sua meglio gioventù. Daniele, come mai allora sei arrivato allo sport? Finalmente sei riuscito a tirarti dentro il campo di calcio, tu che invece hai arato ben altri terreni ancora più infidi, come gli anni del buio del terrorismo, eccetera eccetera. Mi sono molto emozionato perché questa è una storia che avevo in mente di scrivere da molti anni. Ho scritto 27 libri, questo è il 28esimo, ed era una storia che avevo dentro proprio dall'estate del 1978, quando facevo l'obiettore di coscienza ad Amnesty International e arrivavano prima decine, poi centinaia, poi migliaia di persone che fuggivano dalla dittatura argentina di Videla, e noi potevamo fare due cose, cioè quello che le prefetture e il Ministero degli Esteri allora non aveva fatto. Potevamo fare gli impiegatini, nome, cognome, generalità, punto e basta, e poi far passare tutto alle istituzioni. E invece vedevo in quegli occhi di quelle persone, che poi peraltro avevano tutti 20 anni, 21 anni, più o meno l'età che avevo io, che però appunto, mentre io vivevo a Milano e vivevo in un paese democratico, questi fuggivano da una dittatura ferocissima. Il 24 marzo 1976, 30.000 morti almeno, tutti spariti, 350 centri di detenzione, tra cui l'ESMA, che era a 300 metri dalla stadio monumentale di Buenos Aires, e questi voli della morte che iniziavano il loro cammino, il loro volo, fino alle primissime ore dopo il golpe, e hanno lanciato almeno 7-8 mila, chi dice 10 mila, comunque un terzo di quelle persone sparite. Eppure si giocò a calcio, eppure i militari furono bravi a mascherare, no? questo regime e il suo aspetto più sanguinario, che pure piano piano divenne evidente grazie anche alla testimonianza dolente delle madri de Plaza de Mayo, queste donne che cominciarono a chiedere conto della vita dei loro figli spariti. Eppure, dicevamo, la stampa internazionale e la FIFA andarono a quel mondiale chiudendo gli occhi su quella verità dolente, drammatica e scomoda. Pochi furono i giornalisti che non solo dissero no, ma riuscirono addirittura a chieder conto. Ricordo Gianni Minà, che vide ritirato il suo pass per i mondiali in seguito ad una domanda in merito ai desaparecidos. Sì, noi andammo là con una grandissima squadra, che poi era il blocco Juventus, con Paolo Rossi, che ancora non era Pablito, ma insomma già si vedeva in lui un grande estero, e sarebbe stata più o meno la squadra di Beazzot dell'82 in Spagna, quindi una grande squadra che batte anche l'Argentina per 1-0 con un grandioso gol di Bettiga. Però il fatto che comunque, ma questo è stata la vera vergogna, e si chiamano i mondiali della vergogna quelli, perché si sono giocati in un'Argentina che era già abbondantemente grondante di sangue, c'erano morti invisibili dappertutto. Questa è stata la grande furbizia della giunta di Videla, perché loro, a differenza del Cile di Pinochet, quindi con gli stadi stracolmi di persone, con le fucilazioni in mezzo alla strada, con il ritrovamento di corpi, ecco, chi andava a Buenos Aires nel 1976, ma anche nei giorni in cui si giocavano questi campionati mondiali, c'era la movida. Buenos Aires era una città bellissima, tutta illuminata, non si vedeva niente. Peccato che verso le 3, 4, 5 del mattino comparivano queste Ford Falcon senza targa, no? Senza targa, che entravano mirando i presunti colpevoli di cosa? Colpevoli di essere degli oppositori, venivano presi, caricati su queste Ford Falcon, poi torturati nei centri di detenzione con torture di ogni tipo. La cosa più terribile è stata scoperta anni dopo, quando sono ancora stati ritrovati i figli delle coppie che venivano torturate. Eh sì, ed è una ricerca che tutt'oggi, ahi noi, non si può dire conclusa. Eppure si giocava a calcio. Allora ti voglio far sentire la testimonianza del fenomenale Mario Kempes, che riuscimmo a intervistare qualche tempo fa, nel ricordare quella squadra campione tra tante polemiche, perché poi ci fu questa vittoria sul Perù che meriterebbe la marmellata peruviana. Infatti, sembra che sia stata una goleada comprata a suon di tonnellate di grano spedite dall'Argentina verso il Perù, col portiere peruviano che di fatto era argentino, ma insomma comunque anche una grande squadra con tanti campioni, a partire da Mario Kempes, che così ricordava quel gruppo. Il gruppo umano della squadra era spettacolare. Nessuno si sentiva superiore a nessuno, eravamo tutti uguali. Ci conoscevamo, eravamo giovani, con la fame di calcio, con la fame che la nazionale una volta per tutte arrivasse al vertice. Per quello io credo che quello che abbiamo fatto è stato bello, perché siamo andati avanti partita dopo partita, non pensando già all'inizio che avremmo giocato la finale. Siamo andati passo per passo, superando gli ostacoli, perdendo con l'Italia, spostandoci a Rosario. Da lì in avanti eravamo tutti coscienti che eravamo vicini, che avevamo la possibilità di conquistare la Coppa. Teniamo possibilità, però bueno, nel football non si sa. Allora Daniele Biacchesi, prendiamoci un attimo di pausa, poi andremo a sbirciare su quelle tribune del Monumental e entreremo in alcuni di questi centri di detenzione seguendo le pagine di una generazione scomparsa, i mondiali in Argentina del 1978, il libro in cui Daniele Biacchesi rivive quel mondiale insanguinato. Faircam Transport, puntuale ed efficiente nel rispetto dell'ambiente. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta... Olimpia, miti e verità dello sport. Enganchó bien hacia adentro, dio para Kempe, se le tiene la vía, adelantó, peligro de gol, salió el arquero, va a tirar, entra, gol, gol. Secondo gol di Mario Kempes, apre i supplementari di Olanda-Argentina il 25 giugno 1978 allo stadio Monumental di Buenos Aires, e pensare che proprio all'ultimo minuto l'Olanda aveva colpito il palo con Rensselaerbrink, un palo che avrebbe cambiato forse non solo la storia del calcio. Lo chiedo subito al nostro ospite Daniele Biacchesi, amico e collega qui di Radio 24, caporedattore e autore per i titoli di Yaka Book di Una generazione scomparsa, i mondiali in Argentina del 1978 in cui rivive quella coppa insanguinata e il dramma dei desaparecidos. Daniele, pensa se Rensselaerbrink al 90esimo e 20 secondi l'avesse buttata dentro. Avrebbe cambiato la storia del paese e forse un pezzo di storia del mondo. Perché l'Argentina di Videla, di Massera, di questi criminali sanguinari che uccisero, fecero sparire decine di migliaia di persone con tecniche che poi, se volete, racconteremo, in organizzazione di uno Stato inteso per far sparire l'intera sua opposizione, quindi avevano investito moltissimi quattrini, molti erano arrivati dalla FIFA, ma molti erano stati ritrovati anche all'interno dell'Argentina, solo ed esclusivamente per cambiare l'immagine di quel paese e di quella giunta. Tutte le squadre che andavano lì, forse tranne qualche giocatore dell'Olanda, su Cruyff non c'è conferma, perché lui non andò ai mondiali perché disse che aveva paura di essere rapito. Sì, come dicevamo. Qualcun altro invece dice che... però certamente la TV olandese, questo lo sappiamo, realizzò le prime riprese proprio durante il 1978 delle madri di Plaza de Mayo mentre stavano sfilando. Ci furono un paio di giocatori, se non sbaglio, proprio un olandese e uno svedese, e vi farò vedere poi i nomi con precisione, che addirittura supportarono in piazza queste donne. Sì. E sono gesti che oggi valgono molto più di un gol. Sì, io penso che diciamo, noi compresi Italia, ma tutto il mondo del calcio, andò in Argentina a secondando questi criminali. Questo lo possiamo dire naturalmente molti anni dopo. Non lo potevamo dire, lo potevamo pensare. Io in questo libro descrivo anche il modo con cui i generali Videla, Massera ed altri, e non dimentichiamo il Tigre Lacoste, che fu l'organizzatore materiale di quei mondiali, quindi un uomo estremamente micidiale dal punto di vista organizzativo, che è quello che disse sostanzialmente al governo italiano che quel giornalista, cioè Gianni Minà, aveva fatto una domanda sbagliata, e infatti la RAI, invece di mandarlo, lo silurò e Gianni Minà non andò alla mondiale. La cosa più incredibile, sì, aveva solamente chiesto conto dei desaparecidos. Certo, aveva detto se corrispondeva al vero la notizia che delle sparizioni che si continuavano a sentire in alcuni giornali del mondo. Certo, voglio dire, una domanda che poteva essere considerata provocatoria, ma una domanda vera da giornalista, ma ovviamente stiamo parlando di un paese che non ammetteva domande del genere, adesso non ammetteva nemmeno la pur minima opposizione politica nel paese, che è stata sterminata. Sì, infatti ho avuto la fortuna nel mio piccolo di poter vedere uno scorcio di quell'Argentina, e la sensazione che ho ricavato, ahimè, è stata ben diversa da quella che avevo da qua, no? Da qua immaginavi una dittatura che opprimeva un popolo. Sul campo c'è stata più l'impressione di una guerra civile in cui una parte del paese ha sbranato la sua migliore gioventù. C'è questo memoriale, appunto, proprio a Buenos Aires, che si affaccia sul mare, che è la tomba di molti di questi desaparecidos, e quello che ti colpisce è vedere le date di nascita. L'80% sono ragazzi tra i 17 e i 22 anni. Perché? Perché veramente c'è stato una sistematica volontà di stracciare una generazione e privare il paese di una memoria, di una presenza collettiva per le generazioni future. Eppure a calcio si giocava, e nel campo e nel tempo si è creata una sorta di retorica, no? Di quella vittoria ottenuta sotto gli occhi del generale Videla in tribuna, affiancato da un certo Licio Gelli, no? Sì, e questo l'abbiamo saputo dopo, che Gelli, il venerabile capo della loggia massonica P2, era alla finale Argentina-Olanda, ma del resto era in Argentina fin dal 1974, ed è lui che fa conoscere molti dei politici italiani dell'epoca a Juan Perón. Juan Perón, quando arriva a Roma, conosce pezzi del mondo dell'imprenditoria, ma soprattutto politica, attraverso Licio Gelli. Gelli, quando sarà arrestato nel 1981, dopo la scoperta da parte di Gerardo Colombo, di Giuliano Turone, della una delle liste della loggia massonica P2, venne fermato in Svizzera davanti all'UBS di Lugano. Aveva un passaporto argentino che era stato falsificato proprio alla quella di meccanica dell'armada, l'ESMA, la famigerata ESMA, dove sono passati almeno 5.000 dei 30.000 poi spariti e portati e trasportati con gli aerei, i cosiddetti aerei della morte. Oggi sappiamo moltissime cose. Il libro, a differenza di altre documentazioni che sono uscite, ma non per colpa loro, ho avuto la fortuna di leggere, per esempio, tutti i documenti desecretati del Dipartimento di Stato americano. E poi questo libro ha certamente alla base, oltre alle vari rapporti come Nunca Mas e Commissione per la sparizione delle persone, due processi ESMA tenuti a Roma, e soprattutto con sentenza del 17 gennaio di quest'anno, quello che viene chiamato Plan Condor. Io penso che senza la documentazione del Plan Condor non si riesce a capire che cosa sia accaduto in Argentina. Ricordo, Plan Condor vuol dire un accordo tra polizie di vari paesi del Sud America per poter arrestare, torturare, uccidere e compiere stragi in paesi, diciamo, partecipanti a questo accordo. Eh sì, è l'età delle dittature ispirate da Washington, da un altro grande appassionato di calcio, Kissinger. Beh, corre veloce il tempo, così come corre veloce la memoria. Allora, Daniele, in chiusura voglio farti sentire come Mario Kempes ricorda ancora oggi quella vittoria ottenuta sotto gli occhi di Videla in tribuna, e mentre gli oppositori venivano torturati all'ESMA e negli altri centri di detenzione del paese. Nel 74, quando Argentina... Noi nel 1974, quando l'Argentina si aggiudicò l'organizzazione del Mondiale, avevamo una specie di democrazia, diciamo, ma quando è arrivato il 78 c'erano i militari e non si può rinunciare a un Mondiale per questo. Ma noi siamo andati a giocare al calcio, non ci importava chi fosse al governo. Chiaro, a tutti gli altri sì, ma noi andavamo a giocare al calcio. È veramente quello che abbiamo fatto. E le abbiamo dato allegria a quella gente che non aveva piacere di essere sottomessa al governo che c'era. Allora ancora non si sapeva molto di quanto accadeva sotto la dittatura. C'erano proteste, c'erano problemi, come solitamente ci sono, però non a livello di quando si sollevò il coperchio sul pentolone. Lì si è saputo tutto il brutto che era stato fatto. I vincitori scrivono sempre la storia, anche i vincitori di una Coppa del Mondo, no? E io, ringraziando Daniele Biacchessi per essere stato questa sera ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi. Vi invito a rivedere e a riascoltare questa storia di quel 25 giugno del 1978 e soprattutto a sfogliare una generazione scomparsa, i mondiali in Argentina del 1978, il libro che ha scritto Daniele per Yacabook, per conoscere le storie che non abbiamo raccontato di chi seppe dire no a suo modo, rinunciando anche al sogno di vincere una Coppa del Mondo in nome della verità, e di chi da quegli anni e da quei centri e da quei voli non è tornato, la cui memoria oggi urla il desiderio di democrazia, di libertà, di verità. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.